Serbia, Belgrado e la piazza, Turchia, la nuova antica moschea di Erdogan e l'Islam politico. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Hurling rocks, flares and insults at the government, protesters gathered for a second night across the Serbian capital, Belgrade. The Hagia Sophia was turned into a museum by Mustafa Kemal Atatürk following the foundation of the Turkish Republic in 1923. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, 16.09 in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, un nuovo viaggio per raccontarvi tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Con me ci sono come ogni giorno Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, oggi in assistenza c'è Danilo Di Trani e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma anche Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Lì, se vi aggrada, trovate anche la diretta video. E poi Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Per commentare o porre domande su che cosa? Due temi che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato faremo un bilancio e cercheremo meglio di capire che cosa sta accadendo in Serbia, ma soprattutto a Belgrado e attorno al Parlamento. La decisione del presidente Vučić di ripristinare un moderato, quantomeno temporaneo, tre giorni lockdown ha scatenato le ire di buona parte, migliaia di cittadini serbi, quantomeno nella capitale Belgrado. Cercheremo di capire appunto che cosa è accaduto e lo faremo a modo nostro. Da un lato il terreno, un fotografo in particolare, e poi l'analisi. E poi andremo in Turchia, perché sta destando parecchio dibattito e la decisione di Erdogan si sta attirando anche parecchi strali da parte di una parte della comunità turca, ma non solo. La decisione è molto controversa, che riguarda Hagia Sophia, già basilica, poi moschea, poi museo, un patrimonio dell'umanità, un patrimonio, un simbolo interconfessionale che il presidente turco Erdogan vuole restituire al suo Islam, un Islam politico che fa venire un po' di mal di pancia anche in Europa. Ne parleremo anche di questo aspetto. 349-238-6666, noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in territorio africano, in particolare in Costa d'Avorio, perché Amadou Gon Coulibaly, che è il primo ministro ivoriano, candidato del partito di governo per le prossime elezioni presidenziali che sono in programma tuttora per il prossimo mese di ottobre, è morto mercoledì, aveva 61 anni e si era sentito male durante una riunione di governo, portato in ospedale e deceduto. L'uomo era da poco tornato in Costa d'Avorio dalla Francia, spesso capita che paesi francofoni, ex colonie, si rivolgono alla ex madrepatria per le cure, l'assistenza sanitaria. Era stato infatti operato per un intervento, un problema cardiaco, era stato operato e era tornato in territorio ivoriano. Perché ve ne parlo? Perché al di là del lutto che il paese sta vivendo e anche del caos politico che ne può seguire, c'è paura, e lo sottolineano molti analisti, per un'instabilità politica che potrebbe ingigantirsi e portare anche disordini sociali. Coulibaly infatti era il candidato che era stato scelto dal presidente uscente Alassane Ouattara come successore, dopo che Ouattara aveva preannunciato che non si sarebbe candidato per un terzo mandato. La questione del terzo mandato in tanti paesi africani è dirimente, staremo a vedere, un dossier caldo che stiamo continuando a seguire, e naturalmente speriamo che non vi siano quei rinvolgimenti politico-sociali e spesso militari a cui alcuni paesi africani ci hanno abituato. Il prossimo dossier è particolarmente stringato ed è tinto di mistero, perché la polizia coreana ha reso noto che il sindaco di Seul, Park Won-sun, è scomparso e sarebbero in corso le sue ricerche, anche con l'ausilio di droni e unità cinofile per ritrovarlo. Le ricerche si stanno concentrando nel quartiere di Songbu-dong, dove è stato rilevato per l'ultima volta il segnale del suo telefono cellulare. Park ha cancellato il suo programma ufficiale per la giornata di oggi dicendosi malato. A lanciare l'allarme è stata la figlia del sindaco di Seul poco dopo le 5 del pomeriggio, dicendo che il padre era uscito di casa 4-5 ore prima e aveva spento il cellulare. Le sue ultime parole suonano come una sorta di testamento. Eletto sindaco a Seul la prima volta nel 2000. e 11 era stato rieletto nel 2019 per il suo terzo e ultimo mandato. Park, lo ricordiamo, fa parte del partito di maggioranza di Moon Jae-in, il presidente sudcoreano, ed era considerato come un potenziale, è considerato come un potenziale candidato alle elezioni presidenziali del 2022. Infine, l'ultimo dossier riguarda ancora una volta Hong Kong, o quantomeno, o perlomeno, diciamo, i paesi che stanno osservando da vicino quello che sta accadendo nell'ex colonia britannica, l'Australia in particolare, ma anche la Nuova Zelanda. Perché? Innanzitutto la Cina ha accusato l'Australia di gravi interferenze, perché Canberra ha esteso i visti a circa 10.000 cittadini hongkongesi che sono attualmente residenti nel paese, consentendo appunto a questi cittadini che abbiano un lavoro, si trovino già nel paese, di estendere la loro permanenza di almeno 5 anni. E questo suona come un sonoro schiaffo alle autorità di Pechino. Sostanzialmente il primo ministro Scott Morrison australiano sta seguendo le orme che aveva già tracciato Justin Trudeau e il suo Canada, che in parte sta tentando di fare Boris Johnson in Gran Bretagna, alla lista dei paesi che in qualche modo vogliono offrire asilo politico, non è ancora il caso, ma potenziale asilo politico, chiamiamolo così, o comunque un rifugio per la potente e corposa diaspora hongkongese. Si aggiunge, dicevo, anche la Nuova Zelanda, che ha annunciato la revisione delle relazioni con Hong Kong. Sostanzialmente, dalla maggior parte dei paesi, la revisione delle relazioni con Hong Kong deriva dal fatto che, molto semplicemente, Hong Kong, e quindi Pechino nell'ombra, ma neanche tanto nell'ombra, ha sparigliato le carte e il Hong Kong stessa, come la conoscevamo, non esiste più. Questi sono i temi, i dossier che sono qui sul tavolo di Nessun Luogo Lontano, diventeranno i prossimi approfondimenti, le prossime puntate, ma stiamo a oggi, o meglio, stiamo a ieri notte e andiamo a Belgrado, Serbia. La grammatica musicale affidata a Roberta Frisani questa volta è un nuovo, l'ennesimo coniglio dal cilindro, il metal serbo, Iceburn si chiamano loro, particolarmente antisistemici come sonorità, come testi delle canzoni. Ci accompagnano in questo viaggio nella capitale serba per darvi conto di quelli che sono stati disordini durati almeno due notti. Vi anticipavo, come al solito, fotografie dal terreno, è il caso di dirlo, tra poco le posteremo sui social, sono state scattate dall'amico, collega, filmmaker e fotografo irlandese Ed Goetzel, che ci raccontano una Belgrado forse messa a ferro a fuoco, è un po' eccessivo, però disordini. Patrick Kingsley del New York Times ha raccolto testimonianze che dicono che dai tempi di Milosevic che non si vedono scontri così aspri a Belgrado, addirittura una polizia che ha pestato duro, è parecchio duro, molti feriti, molti gli arresti, i feriti più dalla parte delle forze dell'ordine che altro. E poi c'è un mistero, perché bande di civili particolarmente preparate allo scontro fisico avrebbero infiammato ancora di più la piazza, con manifestanti contro manifestanti, civili contro civili. Ancora c'è mistero su questo aspetto, cercheremo di dissipare le nebbie anche da questo punto di vista. Vi citavo Patrick Kingsley, da leggere sicuramente sul New York Times, però su tutti si è fatta sentire, evidentemente, lo immaginate, la voce del presidente serbo Aleksandar Vučić, sentite cosa ha detto. La manifestazione politica è stata organizzata bene, ma una parte dei servizi di sicurezza non è stata efficiente. C'è stato il coinvolgimento di alcuni gruppi criminali, ma anche di alcuni servizi di intelligence internazionali. Capite bene che situazioni di questo tipo, che non si vedevano da tempo in Serbia, possono anche alimentare, e anche molto facilmente, se abilmente strumentalizzate, delle tesi più o meno complottiste su movimenti di intelligence straniera che si sarebbe infiltrata. Qualche ascoltatore sta già scrivendo al 349-238-6666 alludendo a tesi di questo tipo. Fatemi però raccogliere tutti i tasselli, poi forse avremo un'idea un po' più chiara di quello che è accaduto. Dicevo, feriti 19 poliziotti, 17 dimostranti, la polizia che ci è andata giù duro e parecchio, assembramenti e piazza piena di fronte al Parlamento. Il tutto perché Aleksandar Vučić, dopo che il 21 giugno scorso si erano tenute le elezioni, il partito di Vučić aveva guadagnato la maggioranza, dopo che erano stati riaperti gli stadi di calcio, celebrando peraltro il derby di Belgrado, il calcio è sentitissimo in territorio serbo, quindi con assembramenti che potete immaginare, ecco, la popolazione, alcuni testimoni raccolti da vari media hanno detto: ma come, si permettono le elezioni, si permette la ripresa del campionato e poi a causa di questo ci dobbiamo ripiombare in un lockdown. Su tutto questo ovviamente campeggiano anche altre motivazioni. Leggendo la stampa internazionale si evince che l'accusa forse più comune lanciata dai manifestanti a Vučić è il monopolio assoluto sui mezzi di comunicazione di massa, in particolare le televisioni. Come promesso, andiamo sul terreno, lo facciamo con la voce, ma soprattutto l'obiettivo, la macchina fotografica di Ed Godsell, fotografo, filmmaker indipendente, che ci racconta com'è l'attuale situazione a Belgrado. La situazione a Belgrado in questo momento è abbastanza tranquilla. Quella di ieri è stata una lunga notte e penso che tutti, manifestanti e poliziotti, stiano riposando, perché è stata una notte molto lunga per tutti, così come lo era stata la notte precedente. Ma in generale la situazione è tesa, la situazione è calda, sia metaforicamente sia nella realtà. Le persone qui sono arrabbiate, molto arrabbiate. Quelle che abbiamo visto sembrano essere proteste spontanee, che non sono state organizzate da nessun gruppo particolare. Infatti, pochi politici hanno provato a farsi avanti per cercare di parlare. Due di loro sono stati picchiati. Il movimento non sembra avere una guida, una leadership o degli obiettivi. Sembra che tutto questo riguardi solo il deporre un uomo, che è esattamente quello che è successo 20 anni fa con Milosevic. Questa è la voce di Ed Godsell, fotografo filmmaker irlandese che risiede a Belgrado e che ovviamente appena sono scoppiati gli scontri, da buon fotoreporter, ci si è tuffato in mezzo. La voce, dicevo, ma anche gli scatti sui social. Stiamo postando proprio tre dei suoi scatti, che sono in bianco e nero, sono particolarmente potenti. Li trovate su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter l'account è Nessun Luogo 24. In particolare campeggia una foto di uno dei manifestanti, che è un uomo corpulento, molto muscoloso, che sembra guidare e sfidare la polizia come un uomo solo, e questa foto ha avuto un grandissimo successo sui social, dando evidentemente anche un'iconografia molto plastica di appoggio a questa piazza che si sta scagliando contro Vučić. Perché questa foto, ce la spiega Ed Godsell. The picture of that man. Ho scelto l'immagine di quell'uomo semplicemente perché sta riscuotendo molto successo sui social media, credo per la plasticità che lo caratterizza. Ha infatti attirato l'attenzione di molte donne e diverse persone hanno commentato sarcasticamente: guarda, un uomo solo contro tutta la polizia. La foto è interessante anche perché il soggetto indossa una mascherina. I manifestanti hanno la reputazione di essere criminali e violenti. E sicuramente alcuni di loro lo sono, specialmente quando cercano lo scontro con la polizia a tutti i costi. Ci sono però molti uomini serbi dalla muscolatura appariscente che in realtà sono persone pacifiche, a cui semplicemente piace avere una buona forma fisica. Non per essere puerile, ma quella forma fisica certamente può aiutare nel caso di incontro e scontro fisico. Incontro e scontro fisico, attenzione, che non è avvenuto solo con la polizia, ma con persone non meglio identificate in abiti civili. E questo, dicevo, è un mistero che aleggia. Qualche ascoltatore al 349-238-6666 azzarda: vogliamo scommettere sugli operativi del GRU, quel gruppo di intelligence, quella sezione dell'intelligence russa che si occupa proprio delle tante operazioni che abbiamo raccontato prime su tutte quelle contro la dissidenza cecena in giro per l'Europa. Cosa sta accadendo in Serbia? Cidalumi ci aiuta a comprendere la situazione. Giorgio Frussione, che è analista presso ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ed è vice direttore corrispondente dai Balcani per East Journal. Frussione, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, tutti contro Vucic, presenze oscure in piazza, New York Times che dice dai tempi di Milosevic non si vedeva una piazza e una polizia così. Quanto è preoccupante la situazione a Belgrado? Diciamo appunto che è una tempesta perfetta, ecco, come si suol dire, di questi tempi. La decisione di reintrodurre il lockdown da parte del presidente Vucic in realtà è solo un pretesto, non è la motivazione principale. Quello che mi ha portato le persone in piazza ieri e l'altro ieri è, diciamo, una rabbia repressa che va avanti da 8 anni, da quando il suo partito progressista, che è progressista solo nel nome, governa il paese e ha di fatto catturato tutte le istituzioni e detiene il controllo su tutti i mezzi di comunicazione, annientando non solo le opposizioni ma la democrazia stessa. Il plebiscito con cui il 21 giugno si è riconfermato alla guida della Serbia con oltre il 60% delle preferenze e solo altri due partiti, di cui uno è alleato di governo, ci dà un po' la figura, no? Di questo controllo totale, un Parlamento monocolore e una presa su tutte le istituzioni e su tutti quegli elementi che caratterizzerebbero invece una democrazia normale. Degli scarponi ricoperti di polvere di Ed Gotze, il fotografo filmmaker che lì a Belgrado ci ha raccontato la situazione, i suoi scatti sui nostri social, l'analisi, mettiamo il grand'angolo, come amiamo dire, quella fornita da Giorgio Frussione, che è analista di ISPI ed è vice direttore corrispondente dei Balcani per East Journal. La Serbia la conosce bene. Perché la piazza serba Giorgio Frussione è stata così reattiva? Diceva che è stato un pretesto, però un pretesto, come dire, raccolto immediatamente con grande prontezza, come se ci fosse un movimento di opposizione preparato alla prima scusa, sostanzialmente, o sbaglio analisi? Non era preparato, la manifestazione è stata spontanea. Il discorso è molto semplice: in Serbia tutta la vita pubblica, quindi non solo quella che riguarda la politica vera e propria, ruota attorno ed è il frutto di un'unica persona, e questo è il presidente Aleksandar Vučić. Nella conferenza stampa di martedì, con i soliti toni melodrammatici tipici degli autoritari e dei padri della patria, ha sostanzialmente accusato i cittadini di essere stati irresponsabili, e questo dopo aver illuso che si fosse tornati alla normalità, che il virus fosse stato sconfitto, sì, con tanto di riapertura, come avete detto voi, dello stadio dove si è giocato il derby davanti a 25.000 persone, sì, il più grande assembramento d'Europa dalla fine del lockdown. E soprattutto l'inchiesta del giornale Birn, che dimostra che il governo ha mentito sui numeri. Giusto per dare una statistica, dal 15 marzo al 1 giugno i dati ufficiali erano di 244 morti. Birn, che invece è un organo di informazione assolutamente estremamente importante e indipendente, è arrivato al dato di 632 morti, quindi quasi il triplo. Quindi sostanzialmente i cittadini che si sono sentiti accusati dal presidente di essere stati irresponsabili hanno, a mio modo di vedere, voluto restituire le accuse al mittente, e dico anche questa: la notte elettorale con cui il Partito Progressista ha festeggiato il risultato in quelle che sono poi elezioni farsa, e sulle frodi non entro neanche nel merito, ci sono le immagini dei vari ministri, dei vari esponenti del partito che ballano, si abbracciano, si baciano con tanto di musica, eccetera. Pochi giorni dopo sono risultati ben tre ministri e presidente del Parlamento positivi al coronavirus, e il presidente ha anche il coraggio di dire che quelli responsabili sono i cittadini. Sì. Quindi ecco, una bella provocazione, sono ironico, ecco. Evidentemente, diciamo, uno schiaffo, evidentemente è stato troppo per i tanti cittadini, lo ricordava Giorgio Frussione. Un'opposizione che scende in piazza, opposizione civile, particolarmente variegata. Ed Gozel ha trascorso due notti sostanzialmente immortalando questi momenti e lui ho chiesto chi sono quei cittadini che manifestavano di fronte al Parlamento. Ascoltiamo insieme. Ho cercato di farmi un'idea rispetto al tipo di persone che hanno partecipato alle proteste. La BBC stamattina ha parlato di estremisti di destra, ma non è così. Sicuramente ci sono nazionalisti, ma sono presenti anche gruppi religiosi e formazioni di sinistra, che però non portano le loro bandiere, e anche molti studenti. Le manifestazioni di questi hanno una composizione estremamente eterogenea. Si tratta di proteste popolari e nessun gruppo specifico sta monopolizzando le manifestazioni, perché semplicemente non gli sarebbe permesso. Alcuni hanno fatto notare che questo è un problema, perché se non ci sono obiettivi e una strategia precisa, le manifestazioni rischiano di diventare una mera sassaiola senza senso contro le forze di polizia. E si teme che alla fine Vucic possa trarre beneficio da questa situazione nel lungo periodo. Questa è la voce di Ed Gozel. Tra poco vi darò anche conto dei messaggi che arrivano al 349-238-6666. Peraltro c'è Matteo che va fuori tema, ma c'è una breaking news che è appena arrivata che chiede se sia uscito qualcosa riguardo alla corte che si doveva pronunciare sulla dichiarazione dei redditi di Donald Trump. Me la segnala Antonio Taglia, quindi la do al volo. Trump ha perso la sua battaglia contro il procuratore di New York davanti alla Corte Suprema. Significa che il gran giurì che sta indagando sul presidente potrà avere accesso per 8 anni alle dichiarazioni dei redditi e rendiconti finanziari di Donald Trump. Vi daremo conto se vi saranno sviluppi e sicuramente il presidente non mancherà di twittare. Questo è ovvio. Siamo con Giorgio Fruscione, analista di ISPI, le voci, le foto di Ed Gozel dal campo. Vi faccio sentire al volo perché Andrea Macchioni l'ha raggiunto veramente pochi minuti fa. La voce anche di Florian Bieber, scienziato politico specializzato su relazioni interetniche, conflitti, nazionalismo, esperto di Europa sud-orientale, insegna all'Università di Graz. Le abbiamo raggiunto per fargli una domanda molto specifica, perché tra i manifestanti in queste notti caldissime di Belgrado si urlavano anche slogan contro il Kosovo. Qual è lo stato generale, stato d'animo generale in Serbia e perché la piazza ha tirato fuori il dossier Kosovo? Sentite la voce di Florian Bieber. First of all, the meeting in Paris does not seem to be about any kind of final agreement. Sintetizzo brevemente la risposta. Sostanzialmente lo studioso esperto di Serbia dice: il presidente Vucic non ha mai dichiarato che avrebbe effettivamente riconosciuto il Kosovo, ha sicuramente spinto per una cessione reciproca di territorio negli ultimi 2 anni, è stato molto chiaro nel non voler accettare il Kosovo con gli attuali confini senza che ci sia un grosso risarcimento per la Serbia. Niente di tutto questo è stato inserito in alcun documento ufficiale finora, non si può quindi parlare di un accordo imminente tra Serbia e Kosovo, ha ricordato poi il professore. In Serbia c'è molta opposizione nel riconoscere l'indipendenza del Kosovo e solo una minoranza di serbi è favorevole a questa indipendenza. Intanto Antonio Italia mi corregge, giustamente ho detto il gran giurì non potrà indagare per 8 anni, ma 8 anni di dichiarazione dei redditi passate. Propongo a Giorgio Fruscione di rispondere a questa domanda, in particolare dossier Kosovo, quanto scotta e quanto conta nella piazza di Belgrado, subito dopo la borsa però. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, questa è la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, ma continua il nostro viaggio tra le strade e nella piazza serba per darvi conto di 2 notti di scontri molto molto violenti. Almeno 5.000 cittadini serbi si sono radunati per tuonare slogan contro il presidente Vucic, reo di aver reintrodotto un lockdown per quanto limitato 3 giorni, ma in realtà, come ci raccontava Giorgio Fruscione, analista ed esperto di Balcani, vice direttore di East Journal, in realtà è stato un ottimo pretesto per una fetta della società civile che invece stigmatizza questo strapotere di Vucic, anche la sua longa manos sui media. E poi dicevo, c'è quel mistero di scontri tra civili, non ci sono quindi poliziotti, non si è capito bene. Ho chiesto lumi a Ed Gozel, fotografo filmmaker irlandese che è lì di base a Belgrado e ha seguito gli scontri. Sentite che cosa dice. Sì, qualcuno sta dicendo che ci sono degli agitatori tra i manifestanti. Altri dicono che è sbagliato postare sui social media le foto delle persone che lanciano pietre contro la polizia, perché si tratta in realtà di finti manifestanti. È molto difficile confermare queste informazioni. Tra noi fotografi si discute molto se pubblicare o meno queste foto. Io fotografo e pubblico quello che vedo. Come faccio a verificare le reali motivazioni dietro le azioni di ogni individuo durante una manifestazione? Ci sono stati una serie di scontri tra i manifestanti ieri, nulla di serio, ma sì, qualcuno è arrivato alle mani con presunti agitatori e provocatori, come d'altronde era successo in piazza Maidan. Ed Gossel peraltro torna con la memoria e con i suoi scatti anche a un'altra crisi, quella Maidan, Kiev, Ucraina. Torno da Giorgio Fruscione per la domanda chiave con la quale chiuderei questa pagina in Nessun Luogo Lontano, è dossier Kosovo, perché Florian Bieber, che ricordo abbiamo sentito brevemente la sua voce, l'abbiamo sentito davvero pochi minuti fa, nell'intervista con Andrea Macchioni ricordava una cosa, che il dossier kosovaro in realtà non è particolarmente sentito dai serbi, né c'è stata una particolare preparazione negli ultimi anni, come dire, a un colloquio, a una ripresa dei contatti. Bieber sostiene piuttosto che siano frange dell'estrema destra che la stiano utilizzando per gettare un po' di olio sul fuoco. Ci aiuta Giorgio Fruscione a ridimensionare o allargare, comprendere meglio quanto è importante il rapporto col Kosovo in questa piazza, quella di Belgrado? Sostanzialmente direi due cose un po' in sintonia con quanto hanno detto gli altri interventi. La prima è che appunto in piazza non abbiamo sigle partitiche, non abbiamo cartelli dell'opposizione o altro, abbiamo i cittadini e le cittadine della Serbia. Quindi tra questi ci sono coloro che sono più sensibili al tema del Kosovo, coloro che non vogliono che il Kosovo consolidi quella che di fatto è già un'indipendenza e quindi vedono in Vucic la persona, perché essendo lui l'unico, diciamo, artefice della vita pubblica in Serbia, colui che potrà portare alla diciamo riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. E proprio adesso Vucic si trova a Parigi, quindi probabilmente questo ha incentivato a usare quello del Kosovo come slogan contro Vucic. Si trova a Parigi, dicevo, Vucic per un incontro con Macron che precede quello più importante di domenica a Bruxelles con il primo ministro kosovaro Abdullah Öcalan, per provare a riprendere quello che sarà il dialogo, ma è un dialogo che è fermo da un anno e mezzo, è stato caratterizzato da tantissimi stop and go e sostanzialmente la popolazione rimane all'oscuro di quelli che sono i progetti politici del presidente serbo, così come di quelle che sono le alternative. Non c'è un dibattito pubblico sul Kosovo, quindi coloro che sono più sensibili ne sono molto arrabbiati, coloro che invece non sono così sensibili ai temi nazionali sono allo stesso modo, come dire, spingono perché il dossier venga chiuso e quindi si possa andare avanti. Certo, e in ogni caso per entrambe le fazioni, per così dire, la piazza è un luogo dove gridare queste motivazioni. Grazie mille Giorgio Fruscione, lo ricordo, lo potete leggere le sue analisi sul sito e non solo di ISPI, e potete leggerlo, e ne è il vice direttore su East Journal. Grazie mille Fruscione, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. 349-238-6666, do una sintesi di alcuni dei messaggi che avete mandato. Alcuni ascoltatori dicono che bisogna seguire la pista degli hooligans perché il derby di Belgrado potrebbe aver fornito linfa vitale anche a quella piazza. Certamente non è da escludere, conoscendo anche un certo pezzo, una certa fetta della tifoseria serba particolarmente muscolare. Torneremo sicuramente, complici gli incontri internazionali di cui parlava Giorgio Fruscione, sul tema Serbia ma anche Kosovo. Adesso però con Roberta Frisani ci spostiamo e andiamo in Turchia. Reopening of Riconsegnare Hagia Sophia al culto è una dovuta manifestazione di rispetto verso la volontà con cui fu costruita e un segno di gratitudine e lealtà verso la figura spirituale del sultano Fatih, il conquistatore. Quello che avete sentito, quella che avete sentito era la voce di Selim Margun, che è il presidente di questo ufficio direttorato degli affari religiosi in Turchia, che va a seguire sostanzialmente i dettami del presidente Erdogan. Per molti l'islamizzazione della Turchia è un pericolo. L'ultimo tassello sarebbe la riappropriazione, anche se in realtà è luogo particolarmente sincretico, Hagia Sophia, Hagia Sophia, secondo se la vogliamo pronunciare alla turca o alla greca, lo ricordavo, già basilica, e poi nel 1453 il sultano Fatih il conquistatore che la rese definitivamente moschea. Fino a qualche giorno fa sostanzialmente questo luogo era un monumento simbolo anche del cosmopolitismo, del sincretismo anche religioso di quella Istanbul che è tuttora un grande crocevia e una porta d'accesso tra est e ovest. La parola chiave per comprendere la demolizione della laicità che è stata avviata in Turchia da Erdogan e Dianet, il direttorato appunto per gli affari religiosi, organo istituito nel 24 dopo la rivoluzione kemalista dello stesso Ataturk, doveva gestire gli affari religiosi. Progressivamente è stato riempito, per così dire, di nuovi contenuti da parte del presidente Erdogan, addirittura i dipendenti sono più che raddoppiati, 150.000 persone. E si vede, è uno degli strumenti che ha a disposizione il presidente Erdogan per questa islamizzazione appunto del paese. Allora, vi faccio sentire innanzitutto la voce di Azad Baris, che è sociologo, membro dell'HDK, che è anche fondatore dell'Esidi Culture Foundation. È un sociologo ed è particolarmente sensibile alle tematiche sociali, etniche e religiose che avvengono in Turchia. Perché Erdogan vuole a tutti i costi far ritornare Santa Sofia una moschea? Quali messaggi vuole mandare? Sentite. At first I would like to say very clearly, Erdogan mean this very seriously. Innanzitutto vorrei dire chiaramente che Erdogan ha davvero intenzione di trasformare Hagia Sophia in una moschea. Il suo messaggio è molto chiaro. Vuole mostrare al mondo che lui, in Turchia, può fare tutto quello che vuole. Questo è il motivo per cui dobbiamo prendere molto seriamente la questione. Il punto della questione di Hagia Sophia, a mio avviso, è che Erdogan vuole alimentare il conflitto tra le religioni. Si tratta di un attacco contro i valori culturali e religiosi della comunità globale. Hagia Sophia appartiene a tutti noi, è un patrimonio dell'umanità e tale dovrebbe rimanere. Ma fino ad ora, a livello internazionale, nessuno ha detto nulla di concreto contro questo progetto. Bisogna far capire in maniera molto chiara a Erdogan che non gli sarà permesso di trasformare un patrimonio dell'umanità in una moschea. In Turchia, a Istanbul, ci sono già moschee a sufficienza. Questo significa che non c'è motivo di cambiare la forma simbolica e culturale di Hagia Sophia. Questa è la voce di Azad Baris e buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano anche a Valeria Talbot, ricercatrice e co-capo dell'ufficio di ISPI che si occupa di Medio Oriente e Nord Africa. Talbot, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, le chiedo uno sforzo, so che chiedere a un analista è difficile, uno slogan. Che cosa significa questa riconversione o ririconversione? Perché poi andiamo a sentire la viabilità e poi avremo 10 minuti tondi tondi per discutere di questa mossa. È più una provocazione o più, nell'idea di Erdogan, una restituzione, un'operazione filologica in qualche modo, è storica, ecco. Dal mio punto di vista io lo vedo come l'utilizzo dell'elemento religioso a fini politici. Ferma lì, perfetto, lo slogan ce l'abbiamo. Valeria Talbot, grazie mille, abbia un attimo di pazienza, la viabilità e poi apriamo il dibattito vero e proprio. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano si occupa e vi racconta un gesto altamente simbolico ma delle conseguenze per il momento non prevedibili. Con Valeria Talbot, esperta di Turchia, analista di ISPI, stavamo ragionando su un termine. Valeria Talbot, lo sintetizzo, lo slogan era particolarmente efficace: Islam come strumento politico, in particolare la storia di Hagia Sophia, di Santa Sofia, se preferite. Talbot. Sì, perché no, diciamo, è da anni che Erdogan parla di, diciamo, non è nuova la sua intenzione di voler trasformare Santa Sofia in un luogo di culto islamico, in una moschea. Perché proprio adesso? Perché dopo tanti anni, proprio in questa fase? È questa la domanda. A mio avviso perché siamo in una fase di calo di consensi nei confronti del presidente Erdogan, nei confronti del suo partito. Un calo di consensi dovuto forse da un lato ad un effetto stanchezza dopo 18 anni al potere, ma dall'altro soprattutto alla crisi economica che ha colpito il paese a partire dal 2018 in fasi alterne e che è stata anche la principale causa della perdita di consensi del partito di Erdogan alle amministrative del 2019. Perdita che appunto ha all'opposto fatto guadagnare la vittoria nelle grandi città al principale partito di opposizione, sì, il Partito Repubblicano del Popolo. Sì. Quindi il fatto che proprio a Istanbul, perché Istanbul, diciamo, la perdita di Istanbul, eh sì, la vittoria di Ekrem Imamoglu in quello che è stato la seconda votazione nel giugno dello scorso anno, appunto per la leadership della città, se così, sì, vogliamo dire. Sì. Brucia ancora, è una ferita aperta. Erdogan, sì, aveva detto chi vince Istanbul vince la Turchia. Istanbul è il cuore economico e finanziario, culturale della Turchia, e lì lo scontro è aperto. Lo abbiamo visto anche nella fase di gestione della crisi, come il governo centrale abbia ostacolato tutte le iniziative portate avanti di fundraising, di raccolta fondi per sostenere la popolazione locale da parte della municipalità di Istanbul, da parte del sindaco Imamoglu. Quindi iniziare da Istanbul la riconquista dei consensi. Sì. Questo è il mio punto di vista. Sì. State ascoltando la voce, l'analisi, il commento di Valeria Talbot, analista di ISPI, esperta di Turchia, riconquistare un po' forse il cuore, la mente. Beh, parliamo di religione, qua la fede è qualcosa di davvero ineffabile, salvo poi sostanziarsi in monumenti, patrimoni dell'umanità. Così è Santa Sofia, già basilica, poi nel 1453 convertita in moschea, un luogo che è sicuramente incontro, un luogo che è simbolico di questo sincretismo proprio di Istanbul. Un ascoltatore mi chiede, ma fatemi capire meglio, è come se in Spagna i cattolici volessero costruire in Alhambra una cattedrale. No, non è esattamente così, proprio per la cosa che sottolineavo prima. C'era in qualche modo, no, Valeria Talbot, una sorta di equilibrio spirituale anche permeato in quel luogo. Però l'ultima domanda, perché abbiamo gli ultimi tre minuti, vorrebbe vertere invece Talbot sul fatto che l'utilizzo della religione da parte di Erdogan si esprime anche in una serie di numeri che sono particolarmente allarmanti secondo un certo punto di vista. E nella zona di Ankara negli ultimi 15 anni i presidi di 8.000 scuole laiche sono stati rimpiazzati da direttori provenienti da scuole religiose. Secondo varie statistiche, dopo il fallito golpe del 2016 gli insegnanti licenziati sono stati oltre 35.000. Lavorare sulle scuole per formare una nuova generazione di turchi religiosi, e quindi la domanda si completa con quest'altra diciamo parte, quel invito da parte di Erdogan a riprendere i colloqui per l'adesione, l'annessione in Unione Europea, che senso ha con una Turchia così profondamente diversa dai valori nostri dell'Unione Europea? Ma non sto parlando di Islam assolutamente in questo momento, mi sembra sia davvero una, come dire, un andare dalla parte opposta e allo stesso tempo chiedere e bussare alla porta europea. Ci spiega questo paradosso? Appunto, partendo da quest'ultimo punto, la Turchia oggi è lontanissima da quelli che sono gli standard politici che l'Unione Europea pone ai paesi candidati, i cosiddetti criteri di Copenaghen. Abbiamo visto, a partire dal fallito golpe del 2016, un progressivo deterioramento di quel processo democratico che proprio la KP aveva avviato nella prima fase del suo governo all'inizio degli anni 2000, un deterioramento dello Stato di diritto, del sistema di pesi e contrappesi tra i poteri dello Stato, per accentuare la figura del Presidente attraverso una riforma costituzionale che ha trasformato la Turchia da Repubblica parlamentare in Repubblica presidenziale, con un Presidente dagli ampi poteri. Quindi tutta una situazione interna che abbiamo visto appunto nei due anni di stato d'emergenza luglio 2016, post-golpe, tentato golpe, che ha allontanato tantissimo la Turchia dall'Unione Europea. Per questo parlare oggi di ingresso della Turchia nell'Unione Europea, al di là dei valori religiosi, è utopistico. Il fatto che il governo di Erdogan abbia ripreso il discorso membership dell'Unione Europea in questa fase, anche lì lo legherei agli aspetti economici, al fatto che comunque in caso di bisogno, di necessità, di crisi economica è all'Europa. Chiarissimo. Valeria Talbot, sono davvero in chiusura, ringrazio tantissimo Valeria Talbot di ISPI. Anche per lei, Talbot, c'è una parola, questa. E ringraziamenti a tutti voi per essere stati all'ascolto, alla squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.